38esima traccia. Spero che questa storia della mia condotta verso di lei sarà ammessa da voi e da mio padre come una grande attenuante per ciò che vi è parso scorretto. Mentre ritenevate che io fossi in colpa verso Emma Woodhouse, non potevo meritar nulla da nessuno di voi due. Assolvetemi qui e procuratemi, quando è permesso, la soluzione e la benevolenza di Emma Woodhouse, verso la quale io nutro sì fraterno affetto da desiderare di vederla profondamente e felicemente innamorata al pari di me. Qualunque strana cosa io abbia detta o fatta durante quella quindicina, ora ne avete la chiave. Il mio cuore era in aibori e la mia faccenda era di trasportarvi il mio corpo quante più volte e con quanto meno sospetto si potesse. Se vi ricordate di qualche bizzarria, ascrivetela alla giusta ragione. Del pianoforte di cui si è tanto parlato, ritengo necessario solo dire che la sua ordinazione rimase assolutamente ignota a Miss Fairfax, che non mi avrebbe mai permesso di mandarlo se fosse stato chiesto il suo parere. Va oltre alle mie forze, mia cara signora, rendere giustizia alla delicatezza della sua anima durante l'intero periodo del fidanzamento. Presto, lo spero intensamente, la conoscerete a fondo voi stessa. Nessuna descrizione può descriverla. Essa deve dirvi da sé ciò che è, ma non con le parole, perché non c'è mai stata creatura umana che così di proposito sopprimesse i propri meriti. Dopo che ho cominciato questa lettera, che riuscirà più lunga del previsto, ho avuto notizie da lei. Dà un favorevole ragguaglio della sua salute, ma siccome non si lamenta mai, non oso fidarmi. Desidero avere la vostra opinione della sua cera. So che presto andrete a trovarla. Essa ha molto timore di questa visita. Forse è già stata fatta. Datemi vostre notizie senza indugio. Sono impaziente di sentire mille particolari. Ricordate per quanti pochi minuti io sono rimasto a Randalls e in che stato di eccitazione, di follia. E ancora non sto molto meglio. Ancora sono fuori di me dall'infelicità e dalla pena. Quando io penso alla bontà e al favore che ho incontrato, alla eccellenza e pazienza di lei e alla generosità di mio zio, impazzisco dalla gioia. Ma quando io ripenso a tutto il disagio che ho causato a lei e quanto poco io merito di venir perdonato, impazzisco dalla collera. Potessi solo rivederla, ma non debbo ancora proporlo. Mio zio è stato troppo buono perché io voglia abusare. Debbo ancora aggiungere a questa lunga lettera. Non avete sentito ancora tutto quel che dovreste sentire. Ieri non ho potuto dare particolari coerenti, ma la subitaneità e da un certo punto di vista l'intempestività con la quale la faccenda è venuta alla luce richiedono spiegazioni. Poiché, sebbene l'avvenimento del 26 scorso, come voi concluderete, mi abbia aperto d'un tratto le più liete prospettive, non mi sarei arrogato di fare passi così prematuri se non fosse stato per le particolarissime circostanze che mi permettevano di perdere un'ora. Mi sarei guardato bene dal precipitare le cose, ed essa avrebbe sentito ogni mio scrupolo con moltiplicato vigore e raffinamento. Ma non potevo agire altrimenti. Il frettoloso impegno che essa aveva assunto con quella donna, a questo punto, mia cara signora, sono stato obbligato a interrompere bruscamente la lettera per rimettermi e calmarmi. Ho fatto una passeggiata per la campagna ed ora, spero, sono abbastanza padrone di me per fare che il resto della mia lettera sia quale dovrebbe essere. Di fatto, se io mi guardo addietro, rimango mortificato. Mi sono comportato in modo vergognoso e qui posso riconoscere che il mio contegno con Miss Woodhouse, nell'essere sgradevole per Miss Fairfax, è stato biasimevolissimo. L'ha disapprovato lei e ciò sarebbe dovuto bastare. La mia scusa di nascondere la verità, essa non l'ha ritenuta sufficiente. Ne rimase contrariata, irragionevolmente, io pensai. Mi pareva che lei fosse in mille occasioni scrupolosa e cauta più del bisogno. La pensai perfino fredda. Ma essa aveva sempre ragione. Se io avessi dato retta al suo giudizio e avessi contenuto il mio brio nei limiti da essa ritenuti corretti, avrei evitato la più grande infelicità che io abbia mai conosciuta. Litigammo. Ricordate la mattina passata a Donwell? Costì ogni piccolo dissapore che era fiorato prima giunse a una crisi. Io arrivai tardi. La trovai che si avviava a casa da sola e volevo accompagnarla, ma lei non lo tollerò. Rifiutò assolutamente di permetterlo e questo sul momento mi parve irragionevole. Adesso però non vi scorgo che un grado di discrezione molto naturale e coerente. Mentre io, per accecare la gente circa il nostro fidanzamento, mi comportavo per un'ora con biasimevole zelo verso un'altra donna, doveva lei consentire l'ora dopo a una proposta che avrebbe frustato ogni cautela anteriore? Se fossimo stati incontrati a camminare insieme tra Donwell e Highbury, si sarebbe sospettata la verità. Tuttavia, io fui abbastanza folle da risentirmene. Misi in dubbio il suo affetto. Più ancora ne dubitai il giorno seguente a Box Hill, allorché, provocata da tale condotta da parte mia, da una trascuranza così vergognosa e insolente nei suoi riguardi e da una tale apparente devozione per Miss Woodhouse, quale ogni donna di buon senso avrebbe trovato impossibile tollerare, ella espresse il suo risentimento in frasi perfettamente intelligibili per me. In breve, mia cara signora, fu una lite senza biasimo per ciò che si riferiva a lei, abominevole da parte mia. E la sera stessa io tornai a Richmond, sebbene avessi potuto rimanere con voi fino alla mattina dopo, solo perché volevo essere in collera con lei quanto più potevo. Anche allora io non ero un tale sciocco da non intendere di riconciliarmi col tempo, ma io ero la persona offesa, offesa dalla sua freddezza, e me ne andai deciso che avrebbe dovuto essere lei a fare il primo passo. Non cesserò mai di rallegrarmi che voi non partecipaste alla gita a Box Hill. Se voi aveste veduto il mio contegno là, non posso immaginare che avreste più pensato bene di me. Il suo effetto su di lei è evidente dall'immediata risoluzione che produsse. Appena trovò che me ne ero andato da Randolph, accettò l'offerta di quell'insistente Mrs. Elton. Tutto il cui modo di trattarla, sia detto per incidenza, mi è sempre colmato di indignazione e di odio. Non devo prendermela con uno spirito di sopportazione che è stato così generosamente praticato nei miei riguardi, ma altrimenti leverei alte proteste contro la dose che quella donna ha conosciuto. Jane, davvero, noterete che io non mi sono ancora permesso di chiamarla con quel nome, neanche con voi. Pensate dunque che cosa debbo aver sopportato a sentire gli Elton passarselo tra loro con tutta la volgarità di un'inutile ripetizione e tutta l'insolenza di una superiorità immaginaria. Abbiate pazienza con me, avrò finito tra poco. Essa accettò quell'offerta, risoluta a rompere del tutto con me. Il giorno dopo mi scrisse per dirmi che non ci saremmo più incontrati. Sentiva che il fidanzamento era una fonte di rammarico e di infelicità per entrambi, lo scioglieva. Quella lettera mi giunse proprio la mattina della morte della povera zia. Risposi entro l'ora, ma per la confusione della mia testa e la molteplicità delle faccende che mi piovero addosso nel medesimo tempo, la mia risposta, invece d'essere inviata con tutte le molte altre lettere di quel giorno, rimase chiusa nel mio scrittoio. E io, confidando di aver scritto abbastanza, sebbene fossero solo poche righe da soddisfarla, rimasi senza alcuna apprensione. Fui alquanto deluso di non ricevere da lei una pronta risposta, ma trovai scuse per lei, io avevo troppo da fare e, posso aggiungerlo, ero troppo lieto delle mie prospettive per essere eccessivamente suscettibile. Ci recammo a Windsor e due giorni dopo ricevetti da lei un pacco, tutte le mie lettere restituite, e al tempo stesso poche righe per posta che dichiaravano la sua estrema sorpresa di non aver ricevuto la più piccola risposta alla sua ultima, e aggiungevano che siccome il silenzio su un punto come quello non poteva venir frainteso, e siccome doveva desiderarsi egualmente per entrambi che ogni disposizione, che da ciò dipendesse venisse presa il più presto possibile, essa mi mandava ora con un mezzo sicuro tutte le mie lettere e mi chiedeva che se non potevo subito metter la mano sulle sue, in modo da mandarle a Highbury entro una settimana, gliele inoltrassi dopo quel periodo a, in breve, il completo indirizzo di Mr. Smallbridge presso Bristol. Conoscevo quel nome, il luogo, sapevo tutto in proposito, e subito vidi che cosa aveva fatto. Era perfettamente consono a quella decisione di carattere che le conoscevo, e la segretezza che aveva serbato intorno a tale disegno nella sua lettera precedente indicavano egualmente la sua ansiosa delicatezza. Per nulla al mondo avrebbe voluto aver l'aria di minacciarmi. Pensate che colpo! Immaginate come io tempestai contro gli sguidi postale prima d'aver scoperto la mia propria svista. Che si doveva fare? Soltanto una cosa. Dovevo parlare allo zio. Senza la sua approvazione non potevo sperare che mi si desse ascolto di nuovo. E parlai. Le circostanze erano in mio favore. La recente perdita aveva ammorbidito il suo orgoglio. E prima che io non avessi previsto, egli era del tutto rassegnato e condiscendente. E alla fine, povero uomo, poté dire con un profondo sospiro che egli desiderava che io potessi trovare nel matrimonio altrettanta felicità di quanta ne aveva trovata lui. Io sentii che sarebbe stata d'un tipo diverso. Siete disposta a commiserarmi per quel che io devo aver sofferto nel rivelare a lui il mio caso, per la mia incertezza mentre tutto era in gioco? No, non commiseratemi finché io non giunsi a Highbury e non vidi come l'avevo resa inferma. Non commiseratemi finché io non vidi il suo viso estenuato, malato. Giunsi a Highbury proprio nell'ora in cui, sapendo che essi facevano colazione tardi, ero certa di avere una buona probabilità di trovarla sola. Non fui deluso, e alla fine non fui deluso neanche nell'oggetto del mio viaggio. Dovetti dissipare a forza di persuasione un bel po' di contrarietà molto ragionevole, molto giusta. Ma ora è fatto, siamo riconciliati, ci amiamo ancora di più, e neppur l'ombra d'uno screzio può sussistere di nuovo tra noi. Ora, mia cara signora, vi lascio, ma non ho potuto concludere prima. Mille e mille grazie per tutta la bontà di cui mi avete dato prova, e 10.000 per le premure che il cuore vi detterà nei riguardi di lei. Se voi pensate che io sia più felice di quel che merito, condivido la vostra opinione. Miss Woodhouse mi chiama il beniamino della fortuna. Spero che abbia ragione. In un punto la mia fortuna è indubitabile. Quello di potermi sottoscrivere il vostro obbligato e affezionato figlio Frank Weston Churchill. Questa la lettera che doveva trovare la via del cuore di Emma. Essa fu obbligata, nonostante la sua precedente decisione in contrario, a rendere tutta la giustizia che Mrs. Weston s'aspettava. Appena arrivò al proprio nome non seppe resistere. Ogni riga che si riferiva a lei era commovente e quasi ognuna gradevole. E quando cessò quest'incanto, il soggetto poté ancora sostenersi per un naturale ritorno della considerazione d'una volta per lo scrivente e per la fortissima attrazione che ogni descrizione d'amore doveva aver per lei in quel momento. Non si fermò finché non fu giunta alla fine, e sebbene fosse impossibile non sentire che egli aveva avuto torto, pure aveva avuto meno torto di quanto lei avesse supposto, e aveva sofferto ed era molto dispiacente, ed era così grato a Mrs. Weston e così innamorato di Miss Fairfax, e lei stessa era così felice che non poteva essere severa. E se egli fosse potuto entrare nella stanza, essa avrebbe dovuto stringergli la mano cordialmente come sempre. La lettera le fece sì buona impressione che quando Mr. Knightley venne di nuovo, essa volle fargliela leggere. Era sicuro che Mrs. Weston desiderava che la lettera fosse fatta conoscere, specialmente ad uno che, come Mr. Knightley, aveva veduto tanto da biasimare nella condotta di Frank Churchill. Sarò lietissima di scorrerla, diss'egli, ma pare lunga. Me la porterò a casa stasera. Ma questo non si poteva. Mr. Weston sarebbe ripassato la sera e Emma doveva restituirla a lui. Preferirei parlarvi, egli rispose. Ma siccome pare che lo esiga la giustizia, sarà fatto. Incominciò, fermandosi, tuttavia, quasi subito per dire: se mi fosse stato offerto di vedere una delle lettere di questo signore alla matrigna qualche mese fa, Emma, non l'avrei presa con tanta indifferenza. Andò un poco innanzi, leggendo per conto suo. Poi, con un sorriso, osservò: un bell'esordio complimentoso, ma è la sua maniera. Lo stile d'un uomo non deve servir di regola a quello di un altro. Non saremo severi. Mi verrà fatto naturalmente, aggiunse poco dopo, di dire la mia opinione ad alta voce mentre leggo. Facendolo mi sentirò vicino a voi. Non sarà tanta perdita di tempo, ma se vi dispiace, affatto lo desidererei. Mr. Knightley tornò alla sua lettura con maggiore alacrità. Qui egli scherza, disse, quanto alla tentazione. Sa d'aver torto e non ha nulla di ragionevole da addurre. Male, non avrebbe dovuto fidanzarsi. La disposizione di suo padre. Tuttavia è ingiusto verso suo padre. Il temperamento gioviale di Mr. Weston è stata una benedizione su tutte le sue rette e onorevoli attività, ma Mr. Weston si è meritato ogni agio presente prima di tentare di guadagnarselo. Verissimo, non venne finché non fu qui Miss Fairfax. E io non ho dimenticato, disse Emma, quanto eravate sicuro che egli sarebbe potuto venire prima se l'avesse voluto. Ci passate sopra molto generosamente, ma avevate proprio ragione. Non ero del tutto imparziale nel mio giudizio, Emma, eppure io credo che, se anche non ci fosse stata di mezzo voi, avrei diffidato di lui ugualmente. Quando venne al punto in cui si parlava di Miss Woodhouse, fu obbligato a leggere tutto il passo ad alta voce. Tutto quel che si riferiva a lei con un sorriso, un'occhiata, uno scuoter del capo, una parola o due di assentimento o di disapprovazione, o soltanto d'amore, secondo che richiedeva il soggetto, concludendo tuttavia seriamente e dopo matura riflessione così. Molto male, sebbene avrebbe potuto essere peggio. Questo è un giocare a un gioco pericolosissimo. È troppo indebitato al caso per meritare assoluzione. Non può giudicare le proprie maniere nei vostri riguardi, sempre di fatto ingannato dai propri desideri e poco riguardoso di quanto non sia il proprio tornaconto. Si immagina che voi abbiate penetrato il suo segreto, abbastanza naturale, con la sua mente piena di intrighi che debba sospettare lo stesso negli altri. Il mistero, l'astuzia, come pervertono l'intelletto. Emma mia, non serve ogni cosa a dimostrare sempre di più la bellezza della verità e della sincerità in tutte le nostre relazioni? Emma annuì, e con un rossore di sensibilità per via di Harriet, per il quale non poté offrire alcuna sincera spiegazione. Fareste meglio a seguitare, disse. Così egli fece, ma presto si fermò di nuovo per dire: il pianoforte, ah! Quello fu l'atto d'uno molto molto giovane, uno troppo giovane per riflettere se l'imbarazzo non avrebbe ceduto di molto il piacere. Un'idea da ragazzo proprio. Non so comprendere che un uomo desideri di dare a una donna una prova d'affetto di cui egli sa che farebbe volentieri a meno. E lui sapeva che essa, se avesse potuto, avrebbe impedito che lo strumento venisse. Dopo questo, egli tirò un bel po' innanzi senza interrompersi. La confessione di Frank Churchill di essersi comportato male fu la prima cosa a richiamare più di una parola di passata. «Perfettamente d'accordo con voi, signore», fu la sua osservazione a questo punto. «Vi siete comportato proprio vergognosamente. Non avete mai scritto riga più vera. E avendo letto ciò che seguiva immediatamente sulla ragione del loro screzio, e sul suo persistere ad agire in modo diametralmente opposto al senso di giustizia di Jane Fairfax, egli fece una pausa più lunga per dire: questo è malissimo. Egli l'aveva indotta a mettersi, per cagion sua, in una situazione d'una difficoltà ed un disagio estremi, e suo primo scopo avrebbe dovuto essere di impedire che ella soffrisse senza necessità. Essa deve aver avuto molti più ostacoli di lui da vincere per continuare la corrispondenza. Egli avrebbe dovuto rispettare anche gli scrupoli ragionevoli, se ce ne fossero stati. Ma quelli di lei erano tutti ragionevoli. Dobbiamo guardare all'unica colpa di lei e ricordare che essa aveva fatto male ad acconsentire al fidanzamento per tollerare che essa debba aver sofferto una tal punizione. Emma sapeva che ora egli arrivava al punto della gita a Box Hill e si sentì a disagio. La sua propria condotta era stata così scorretta, se ne vergognava profondamente e temeva la prossima occhiata di lui. Tuttavia quel passo fu letto con fermezza, attenzione e senza la minima osservazione. E, eccetto uno sguardo di sfuggita a lei, subito ritirato, per paura di darle dolore, non pareva che esistesse memoria di Box Hill. Non è proprio il caso di far l'elogio della delicatezza dei nostri buoni amici. Gli Elton, fu la sua osservazione seguente. I suoi sentimenti sono naturali. Cosa? Risoluta addirittura di rompere con lui del tutto. Essa sentiva che il fidanzamento era una fonte di rammarico e di infelicità per entrambi. Lo scioglieva, come ciò mostra quel che ella sentisse per la sua condotta. Ebbene, egli deve essere proprio uno straordinario. No, no, seguitate, vedrete quanto egli soffre. Spero di sì, rispose Mr. Knightley senza commuoversi e riprendendo la lettera. Smallridge, che vuol dire questo? Che cos'è tutto ciò? Si era impegnata ad andare come governante dei bambini di Mrs. Smallridge, una cara amica di Mrs. Elton, una vicina di Maple Grove, e tra parentesi mi domando come Mrs. Elton sopporta il disappunto. Non dite nulla, mia cara Emma, mentre mi obbligate a leggere, neanche di Mrs. Elton. Una pagina ancora e avrò finito. Che lettera scrive costui? Vorrei che la leggeste con più benevolenza verso di lui. Ebbene, qui c'è del sentimento. Sembra che abbia sofferto a trovarla malata. Certo, non posso dubitare che non le voglia bene. Ci amiamo ancora di più. Spero che possa continuare per un pezzo a sentire tutto il valore di una tale riconciliazione. È un ringraziatore molto liberale, con le sue migliaia e le sue decine di migliaia. Più felice di quel che merito. Via, qui conosce se stesso. Miss Woodhouse mi chiama il beniamino della fortuna. Queste sono state le parole di Miss Woodhouse, vero? È una bella chiusa, ed eccovi la lettera. Il beniamino della fortuna. Questo è stato il nome che gli avete dato, è vero? Non pare che siate rimasto contento della lettera come me, ma pure dovete, almeno spero che dobbiate, pensar meglio di lui per via di essa. Spero che gli giovi un po' ai vostri occhi. Ma certo che gli giova. Egli ha avuto gravi colpe, colpe di sconsideratezza e di scappataggine, ed io condivido assai la sua opinione nel ritenerlo più felice di quanto non meriti. Ma siccome egli è, senza dubbio, davvero attaccato a Miss Fairfax, e presto, si può sperare, avrà il vantaggio di esserle sempre accanto, son pronto a credere che il suo carattere migliorerà e acquisterà da quello di lei la fermezza e la scrupolosità di principi che gli mancano. Ed ora lasciate che vi parli di qualcos'altro. Ora mi sta tanto a cuore l'interesse di un'altra persona che io non posso pensare più oltre a Frank Churchill. Dal momento che vi ho lasciata stamattina, Emma, la mia mente non ha fatto che arrovellarsi su un solo tema. Seguì il tema, in un linguaggio semplice, non affettato, signorile, quale Mr. Knightley usava anche con la donna di cui era innamorato. Come riuscire a chiederla in sposa senza compromettere la felicità di suo padre? La risposta di Emma fu pronta alla prima parola. Mentre era in vita il suo caro padre, ogni cambiamento di condizione doveva esserle impossibile. Essa non poteva abbandonarlo. Solo una parte, tuttavia, di questa risposta venne ammessa. L'impossibilità di lasciare suo padre. Mr. Knightley la sentiva non meno fortemente di lei. Ma l'inammissibilità di ogni altro cambiamento egli non poteva concederla. Ci aveva riflettuto molto profondamente, e molto attentamente. Dapprima aveva sperato di indurre Mr. Woodhouse a trasferirsi con lei a Donwell. Aveva voluto crederlo fattibile, ma la sua conoscenza di Mr. Woodhouse non gli permetteva di illudersi a lungo, e ora egli confessava la sua persuasione che un tale trapiantamento avrebbe rappresentato un rischio al benessere del padre di lei, un rischio forse anche della vita che non doveva venire azzardato. Mr. Woodhouse portato via da Harfield? No, egli sentiva che non bisognava tentarlo. Ma al piano che era nato dal sacrificio di questo, egli confidava che la sua cara Emma non gli avrebbe fatto obiezione. Era che lui venisse accolto a Harfield, che fin quando la felicità di suo padre, in altre parole la sua vita, richiedeva che Harfield continuasse a rimanere il suo focolare, questo sarebbe stato anche il suo. Al trasloco di tutti loro a Donwell, Emma aveva già pensato di sfuggita. Come lui, essa aveva esaminato il progetto e l'aveva scartato. Ma un'alternativa come quella non le era venuta in mente. Essa sentiva quanta affezione tale alternativa dimostrasse. Sentiva che, abbandonando Donwell, egli doveva sacrificare un bel po' di indipendenza di ore e di abitudini, che vivendo costantemente con suo padre in una casa non sua, egli avrebbe dovuto sopportare davvero parecchio. Promise di rifletterci e consigliò a lui di ripensarci ancora. Ma egli era pienamente convinto che nessuna riflessione avrebbe potuto alterare i suoi desideri o la sua opinione in proposito. Egli ci aveva dedicato, poteva assicurarle, una lunghissima e calma riflessione. Tutta la mattina si era messo a passeggiare lontano da William Larkins per pensare tra sé e sé. «Ah, c'è una difficoltà a cui non si è pensato!» esclamò Emma. «Son sicura che non piacerà a William Larkins. Dovete ottenere il suo consenso prima di chiedere il mio». Egli promise ciò nonostante di pensarci, e quasi promise per di più di pensarci con l'intenzione di considerarlo un piano ottimo. È curioso che Emma, tra i molti, moltissimi punti di vista da cui ora cominciava a considerare l'abbazia di Donwell, non fosse mai colpita da alcun senso di offesa arrecata al nipote Harry, i cui diritti d'erede presuntivo erano stati considerati prima con tanta tenacia. Non poteva non pensare alla differenza che ne doveva venire al povero ragazzino. Eppure non ci fece sopra che un sorriso impertinente e consapevole, e si divertì a scoprire la vera causa di quella violenta contrarietà al matrimonio di Mr. Knightley con Jane Fairfax o con chiunque altra che a suo tempo essa aveva interamente attribuita ad amorevole sollecitudine di sorella e di zia. Questa proposta di lui, questo piano di sposarsi e di continuare a vivere a Harfield, più Emma ci pensava e più le piaceva. Gli inconvenienti di lui parevano diminuire, i vantaggi di lei accrescersi, i loro mutui benefici parevano soverchiare ogni incomodità. Che compagno per lei nei periodi di ansia, di mestizia che aveva dinanzi a sé? Che socio in tutti quei doveri e quelle cure di cui il tempo avrebbe accresciuto la melanconia? Sarebbe stata troppo felice se non fosse stato per Harry. Ma ogni sua letizia sembrava implicare e favorire le pene della sua amica, che ora doveva venire esclusa perfino da Harfield. Dalla deliziosa famiglia che Emma si stava procurando per sé, la povera Harriet, per una cautela di pura carità, doveva essere tenuta distante. Su ogni punto avrebbe perduto. Emma non poteva deplorare la sua futura assenza come una diminuzione delle sue proprie gioie. In una famiglia come quella, Harriet non sarebbe stata altro che un peso morto, ma quanto alla povera ragazza pareva particolarmente crudele la necessità che la metteva in tale stato di punizione immeritata. Col tempo, naturalmente, Mr. Knightley sarebbe stato dimenticato, cioè soppiantato, ma non ci si poteva attendere che ciò avvenisse prestissimo. Il Mr. Knightley non avrebbe fatto nulla lui stesso per aiutare la cura. Non avrebbe fatto come Mr. Elton. Mr. Knightley, sempre così gentile, così sensibile, così veramente pieno di delicatezza per ognuno, non avrebbe mai meritato d'essere meno adorato di adesso, e davvero era troppo sperare perfino da Harriet che ella potesse innamorarsi di più di 3 uomini nel giro di un solo anno. Fu un immenso sollievo per Emma vedere che Harriet desiderava non meno di lei d'evitare un incontro. I loro rapporti erano già abbastanza penosi per lettera. Come sarebbe stato peggio se fossero state obbligate a incontrarsi?